bei fior carnosi sono le donne dell'Avana, hanno il sangue torrido come l'Ecuador, fiori voluttuosi come coca boliviana. Chi di noi si inebria, chi ripete ogni creola, alla bruna aureola, per pietà sorridimi, e l'amor m'assa. Straziami, ma di baci saziami, mi tormenta l'anima, uno strano male. La lussuria passa come un vento turbinante, e gli odor più perfidi reca ognor con sé, ed i cuori squassa quella raffica fragrante, e in ginocchio agli uomini sempre ai nostri piedi. Ma di baci saziami, mi tormenta l'anima, uno strano mare.